4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buonasera, bentornati ancora una volta al programma di motori di Radio 24 in collaborazione con gli amici di Quattro Ruote. www.radio24.it nella sezione programmi c'è anche il nostro programma con tutto l'archivio, le voci riascoltabili anche della presente puntata. E poi un semplice indirizzo vi proietta direttamente all'interno della redazione motori per chiederci qualche lume, qualche consiglio oppure anche insomma qualche richiesta per le prove su strada che ogni settimana facciamo. 4ruote@radio24.it. Parleremo di mercato di questo 2010, molta curiosità intorno a quest'anno dopo un 2009 durante il quale ne abbiamo dette di cotte e di crude, durante il quale il settore automobilistico ha vissuto momenti molto brutti e preoccupanti e un finale invece rialzando decisamente il mento. Poi parleremo di DR1, della rinascita anche di Bertone, passeremo alle due ruote con la Honda VFR 1200 e parleremo proprio per i motociclisti di sicurezza con un'iniziativa di due ruote che tende ad abbassare il prezzo dell'abbigliamento di qualità. Porsche House di Milano invece ci racconterà le sciate che si fanno, beati loro, i possessori di Porsche nello sci club. Allora, tutto questo da qui a circa tre quarti d'ora di tempo. Buona serata al professor Paolo Malagodi. Buona serata Roberto e auguri di nuovo anno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie, ricambiati. L'analista del Sole 24 Ore, che spesso scrive le sue riflessioni sul nostro giornale, ci fa compagnia sempre a inizio mese per cercare di capire un po' l'andamento del mese precedente, le nuove immatricolazioni ovviamente, ma soprattutto cercare anche di interpretare quello che sta avvenendo. Allora, caro professore, recuperiamo un po' i discorsi del 2009, durante il quale ci siamo sentiti più volte, e insomma una chiusura in linea un po' con quanto era successo 12 mesi prima. Sì, sostanzialmente i numeri dicono quello, con piccole variazioni, segno che gli ecoincentivi hanno risvegliato una domanda che nella seconda parte dell'anno è stata effervescente, lasciando anche un buon patrimonio di ordini inevasi per il 2010, perché gli incentivi del 2009, pure scaduti il 30-12, permettono a chi ha fatto l'ordine di immatricolare entro marzo del 2010 ricevendo l'incentivo, e tutti gli automobilisti hanno anche pensato di conferire ordini alle concessionarie aspettando la vettura magari nell'anno nuovo anche per migliore valutazione dell'usato in future quotazioni, e quindi abbiamo un portafoglio ordini che permette a gennaio di muoversi con tranquillità su volumi alti, perché è un portafoglio ordini di oltre 300.000 unità. Poi quello che succederà da marzo in poi, esaurendosi molto la coda degli ordini su gennaio, in parte febbraio, una piccola quota su marzo, è questione di quello che sarà il livello degli incentivi 2010 e come si posizionerà il mercato in base a quegli incentivi. Chiaramente, si è parlato molto di incentivi, no? Ultimamente, dopo le dichiarazioni di Scajola, qualche settimana fa ne abbiamo parlato anche con Tedeschini, il direttore di Quattro Ruote. Tutto lascia presumere che ci siano anche quest'anno, forse spalmati su una base più ampia con una cifra inferiore rispetto a quel 1.500 euro dell'anno scorso. Però lei prevede che il mercato risponderà di nuovo bene con le nuove immatricolazioni se ci fossero gli incentivi, professore? Ma sì, si parla di un decreto sviluppo nel quale non solo l'automobile ma anche altri comparti, tra cui alcuni beni di consumo semidurevoli, siano compresi, e si parla di una misura inferiore a quella di quest'anno, diversamente posizionata sulle fasce di emissione. Io ritengo che il mercato del 2010 potrà essere, rispetto a quello di quest'anno, di circa 100.000 unità in meno, che se anche fosse un mercato attorno ai 2.050.000, per l'Italia, se oltre i 2 milioni, è un mercato comunque che è in regime di sicurezza, quindi possiamo aspettarci che la relativa riduzione degli incentivi, un po' la forte anticipazione fatta in questi mesi con ordini che saranno poi anche eseguiti l'anno prossimo, ridurrà l'affluenza della clientela nel 2010, però su margini che ritengo siano compatibili con uno stato del mercato italiano che, quando è oltre i 2 milioni, è comunque il secondo, alla pari della Francia, mercato italiano, mercato europeo dopo la Germania, inarrivabile oltre i suoi 3 milioni. È chiaro. Le linee guida saranno le medesime, cioè GPL e metano, che hanno conquistato nel 2009 circa un terzo addirittura di tutte le vendite, e poi quel downsizing, quella tendenza tendenza a ridurre le cilindrate che hanno una tendenza che ha premiato soprattutto quelle case costruttrici di auto medio-piccole, professore? In gran parte sì, dipenderà anche dagli incentivi, se si applicheranno le auto aziendali, se vi sarà una maggiore detrazione in questo decreto sviluppo per le vetture delle società, allora potrebbe essere che le marche premium, quelle dei segmenti D ed E, quelle della BMW serie 3, serie 5, Audi A4, Audi A6, Mercedes classe C e via dicendo, soffrano di meno su questo fronte e quindi rispetto a quest'anno possiamo avere una presenza migliore di questi costruttori. Perché quest'anno sono i costruttori generalisti, tra i quali Fiat, Peugeot, Citroën, un po' tutti, con l'eccezione di Opel per la situazione di crisi al fondo che c'è in Germania ancora per quanto riguarda il caso Opel, e un po' Toyota perché non ha messo in commercio una variante della Yaris, ad esempio a GPL o a metano. Salvo queste due marche, le marche generaliste hanno fatto un ottimo 2009, le marche diciamo più specialiste un 2010 potrà essere meno tribolato che il 2009, quindi su questa base io considero che ci sia un profilo abbastanza più equilibrato del 2010 che non del 2009. Vogliamo parlare un pochino delle case estere, lei aveva dato anche una riflessione un pochino diversa sul Sole 24 Ore di due settimane fa rispetto all'UNRAE, che è l'unione che rappresenta i costruttori esteri. La loro tendenza, professore, qual è? Quella ovviamente di fare i giochi dei costruttori che importano in Italia veicoli, in un paese che ovviamente vede la Fiat, tutto il gruppo Fiat, come un attore principale e predominante che giustamente fa i suoi giochi. Ma io considero che il gruppo delle estere nel 2010 farà una concorrenza massiccia alle vetture marcate Fiat, Lancia ed Alfa e potrà anche erodere qualche margine di quota, come è già successo a guardar bene in questa seconda metà del 2009, perché Fiat è partita molto bene nel primo semestre con un più 33% come gruppo, un 26% di quota come Fiat marca, poi si è dovuta ridurre nella seconda parte a un 32% come gruppo e un 25% circa come marca Fiat, perché nella prima parte Fiat ha schierato, oltre al metano che già aveva, tutto il GPL su Panda, su Punto, su Bravo e quant'altro, Musa, Ypsilon, eccetera. Le estere erano un po' spiazzate, salvo la Chevrolet che l'aveva da tempo, il GPL. Tutte si sono attrezzate, Ford con la sua corsa da metà anno, la Ford con la sua Fiesta da metà anno, Opel altrettanto con la sua corsa, la Citroën con la 207 e anche sulla 206 precedente, la Citroën di pari passo, e quindi i produttori esteri hanno ampliato l'offerta di GPL raccogliendo maggiori consensi e ritengo che questa situazione dei costruttori esteri capaci di raccogliere migliori consensi potrà anche essere forte nel 2010, perché c'è una gamma di novità alle quali sostanzialmente il gruppo Fiat fa fronte soltanto con la nuova Giulietta che sostituisce la 147, ma non sarà una macchina dei grandissimi volumi, perché altrimenti le vere novità del gruppo Fiat, sì d'accordo il Doblò di adesso, ma non abbiamo una forte rappresentazione della gamma, perché la Y stessa sembra avere dei tempi che non corrispondono esattamente alla prima parte del 2010 e tutto il progetto rimane sospeso anche per una possibile conversione del marchio Lancia per i mercati esteri in Chrysler, cosa che vedremo nei prossimi mesi. Professore, prima di salutarla lascio per l'ultimo minuto della nostra chiacchierata le domande impossibili. Mi cita una o due case estere che saranno protagoniste secondo lei nel 2010? Ma una mi sento di dirlo senza problemi, Dacia, perché Dacia ormai una quota da marca importante, si è presentata sul mercato con una Logan, la prima versione a tre volumi, poco accettata, poi con l'MPV ha fatto meglio, poi adesso addirittura presenta questo nuovo fuoristrada, sì, che ha un prezzo 15-16 mila euro, è costruito sulla base però del Nissan Qashqai, quindi un prodotto di qualità di una versione anche apparentemente più povera ma di contenuti robusti. Un'altra marca che mi sentirei di dire avrà dei grossi margini di miglioramento nel 2010 sarà sicuramente Hyundai assieme alla consociata Kia, perché Hyundai sta riposizionando tutta la sua gamma su modelli nuovi, ha il GPL, e quindi vedo queste due marche apparentemente minori, ma nel numero delle immatricolazioni in questi mesi crescenti, ancora di più vedo per loro bene il 2010 positivo. E invece, ovviamente le devo chiedere la stessa cosa, un solo nome che avrà problemi l'anno prossimo, qui può non rispondere se vuole, si appella all'articolo, qual è, il 5? Ma io continuo a valutare l'attuale situazione di Toyota sul mercato italiano poco sostenibile, al di là della rilevanza di immagine dell'ibrido, senza una gamma metano o GPL su versione di base. Siccome Toyota Italia dice che non sembra orientata su questa fase, se davvero si tengono su questa linea, beh, saranno abbastanza auto dalle tendenze che il mercato italiano avrà verso metano e GPL anche nel 2010. Grazie Paolo Malagodi, a presto e buona serata. Buona serata. Quattro ruote e dintorni. Allora, riprendiamo il discorso, questa volta saliamo in sella, c'è una grande novità targata 2009 che in questo 2010, ormai iniziato da diversi giorni, insomma, farà parlare di sé. Si tratta della Honda VFR, davvero una sigla storica. Mi rivolgo a coloro che non conoscessero questa sigla, avete presente, sono un po' quei nomi tipo Panda, Mutatis Mutandis, cioè un'importanza nel nome, nel brand stesso, che supera poi il costruttore e diventa il VFR o la VFR, ecco, è una sport tourer, è assolutamente un turismo veloce, è la possibilità di avere prestazioni da sportiva o quasi, con una comodità da viaggio o quasi, quella giusta via di mezzo che ha avuto tantissimo successo negli ultimi decenni ed è targata Honda VFR. Nasce la nuova VFR che a giorni sarà presente nelle concessionarie. Ne parliamo in compagnia di un esperto, di un amante proprio di motociclismo, ha fatto compagnia tanti anni fa e adesso si riaffaccia volentieri alla nostra trasmissione, Danilo Della Mura. Caro Danilo, allora buonasera e bentornato. Buonasera e ben ritrovato. Sì, questa è una grande novità, proprio rivoluzionaria. La VFR, nata come 750 27 anni fa, diventa più che adulta, passa a una cilindrata 1200, ma soprattutto cambia completamente il concetto. Le giapponesi cominciano a strizzare l'occhio a quel mercato che fino a poco tempo fa era tipico delle tedesche, e diventa una moto sport tourer, a dire il vero molto più turistica che sportiva, ma soprattutto interessante per le novità che porta sotto la carena. Innanzitutto il cambio: la VFR 1200 si candida ad essere la prima vera moto con cambio automatico, a dire il vero con tre tipi di cambio, perché con un piccolo pulsante messo sul manubrio si può passare a due versioni di cambio automatico, uno più normale e uno più sportivo, oppure la funzione completamente manuale per chi non sa rinunciare a frizione e cambiata. Ecco, bello questa doppia possibilità, no? Perché insomma è una già il cambio automatico per noi italiani si sta diffondendo, ma è una resistenza, è fonte di resistenza per molte persone, però addirittura in macchina, mi riferisco addirittura in moto, avere un cambio automatico so che può creare qualche problema. Il fatto di avere entrambe le possibilità sicuramente può addolcire questa rivoluzione. Certo, ma soprattutto per chi vuole, chi ama la guida sportiva, c'è una doppia frizione, cioè vuol dire due dischi frizioni che sono accoppiati rispettivamente sulle marce dispari, quindi la prima, la terza e la quinta, e l'altro costantemente sulla seconda, quarta e sesta, perché ricordiamo questa moto avrà la sesta marcia. Quindi cosa vuol dire? Che praticamente noi abbiamo sempre la marcia superiore o inferiore innestata, quindi cambi veramente veloci che possono far ricordare quelli delle macchine sportive con cambio al volante. È esattamente quello che accade con il celebre PDK, si chiama Porsche Doppelkupplung, ed è la doppia frizione studiata da Porsche che tanto successo sta avendo sui modelli più sportivi della casa tedesca. In quel caso lì ci sono proprio due cambi: uno prende la prima, terza, quinta, settima e retromarcia, e l'altro la seconda, quarta e sesta. Quindi quando voi siete in seconda, l'altro cambio, l'altra frizione ha già inserito la terza, e capite che il cambio è veramente velocissimo. Senti, non è nessuno l'ha provata, diciamo, in forma completa, però si parla anche di una onda che si sposta un pochino in un ambito turistico, no? Andando magari a rubare qualche cliente, mi viene da dire, BMW? Sicuramente, perché d'altra parte questi ultimi anni la BMW ha cercato di andare sul mercato giapponese, adesso i giapponesi rispondono con questa moto, che è una moto che dai numeri fa capire subito deve essere una sportiva, perché abbiamo 172,2 cavalli a 10.000 giri, ma la cosa più interessante è la coppia, che è 129 Nm a 8.750 giri, ma il 90% della coppia massima è già disponibile a 4.000 giri, quindi vuol dire viaggiare con un filo di acceleratore e non stare sempre a cambiare, soprattutto sui percorsi più tortuosi. E questo non è poco: in due, magari con bagaglio, fuori da una curva, spesso ci si trova a dover scalare per avere la possibilità di avere una buona motricità, e invece avere una coppia così elevata già a un basso regime è un po' il segreto poi per le nostre strade, per i begli itinerari che possiamo fare nel nostro bel paese. Ci sarà ovviamente capacità di carico a iosa, immagino, certo, vero? Infatti, proprio per sottolineare la vocazione turistica, la Honda prevede già in partenza gli agganci per le borse laterali. Il posteriore è studiato molto stretto per contenere due borse da 35 litri in optional, quindi veramente un grande carico, più il bauletto centrale, più la borsa serbatoio, quindi si può viaggiare in ottima comodità. Difficile parlare di difetti o di punti deboli di una moto che ancora nessuno ha provato compiutamente, però se dovessi pensare a uno degli aspetti principali, mi viene da dire il prezzo, perché certo una moto così non la regaleranno. Sicuramente il prezzo, e l'altro difetto che accompagna tutte le novità è proprio il fatto di essere una novità, cioè nel senso che nessuno sa come si comporterà questo cambio, questa frizione, quindi come tutte le novità hanno sempre un po' questa alone di attrazione, ma anche un po' di paura. Sì, questo è vero, anche se sai, essendo Honda, insomma, è difficile che Honda non faccia le cose per bene. Però sicuramente. Diciamo che il punto un po' debole può essere, per chi è abituato al vecchio WFR, può essere un po' il discorso del peso. Qui andiamo a 260 kg in ordine di marcia, quindi chi è abituato al WFR classico forse può essere questo il punto di debolezza, però chiaramente Honda ha dichiarato di voler andare su un mercato più ampio. Senti, rimanendo sul prezzo, io mi aspettavo un 12, 13, 14 mila euro, sembra che insomma qualcuno dice anche di più. Sì, diciamo che forse siamo alla fascia alta di 15.000 euro, forse possiamo anche andare più sul 16.000. Questo è un'incognita, diciamo che la Honda, questo qui è proprio una novità, che l'Honda ha fatto un lavoro molto di comunicazione molto bello, ha presentato alla stampa in praticamente un brindisi natalizio, dove protagonista era la WFR, e è fatta vedere purtroppo da ferma, però molto probabilmente nei prossimi giorni farà questo test su strada. Bene, molto bene. Allora, giorni, andiamo nei concessionari a vedere questa leggenda, insomma, della WFR che si riaffaccia sul mercato, rinnovata ancora una volta. Grazie Danilo Della Mura, a presto e buona serata. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Parlando di moto, non può mancare naturalmente Due Ruote, i nostri partner in sella, con un'iniziativa questa volta davvero interessante che, se non sbaglio, si chiama Due Ruote for You, proprio per te. Vero Fabio Cormio? Buonasera. Buonasera Roberto, sì, si chiama esattamente così, Due Ruote for You, ed è un'iniziativa che è stata promossa proprio dalla nostra redazione per rendere accessibile, facendo una sorta di regalo di Natale, rendere accessibile a un pubblico il più vasto possibile alcuni prodotti di abbigliamento e accessori, prodotti di alta gamma, che si segnalano per non solo per l'ottima fattura, ma anche per la sicurezza, che è uno dei fattori che noi consideriamo sempre. Allora, rivolgiamoci a tutti. Fabio, aiutami a diffondere questo messaggio che è molto importante al di là della vostra iniziativa. Ci rivolgiamo a tutti i motociclisti che sanno bene di cosa stiamo parlando, ma anche a tutti gli scooteristi, a tutti quegli automobilisti che possiedono uno scooter. Perché non mettere per esempio una fascia paraschiena in città, lì dove forse serve ancora di più? Perché non utilizzare una giacca con coprispalle e gomitiere? Ecco, tutto questo si chiama abbigliamento tecnico da moto, e c'è un pregio e un difetto. Il pregio è che serve tantissimo se fatto bene, il difetto è che costa tanto, Fabio. Sì, in realtà c'è una, se fino a qualche anno fa distinguevano per la qualità soltanto dei prodotti dei marchi top, e quindi acquistare una giacca, un giubbotto tecnico costava, significava intanto prendere magari un giubbotto di pelle molto costoso e comunque molto rigido. Adesso le cose sono cambiate, insomma ci sono prodotti veramente di tutte le fasce di prezzo, e anche quelli che non costano molto non sono necessariamente più scarsi. Certo, quindi quello che avete fatto è stato di radunare o mettervi d'accordo con alcuni rivenditori e proporre che cosa esattamente? Sì, allora noi abbiamo selezionato prima di tutto i prodotti, e poi abbiamo chiesto alle aziende che o li producono o li importano, li distribuiscono in Italia, di proporli a dei prezzi che siano eccezionalmente bassi dal 15 dicembre fino alla fine di gennaio. Alcune case hanno accettato, abbiamo concordato insieme i prodotti, anzi devo dire che molti marchi si sono rivelati entusiasti di questa iniziativa, e adesso ci sono, potete trovare intanto su Due Ruote già in edicola, ma poi anche su Moto Online la descrizione di questa iniziativa, e anche l'elenco dei concessionari di questi marchi che aderiscono all'iniziativa. In questi concessionari troverete una vetrofania, un bollino giallo e nero col simbolo del moscerino con scritto Due Ruote For You, e lì avrete la garanzia di ottenere un prezzo estremamente basso. Noi abbiamo pubblicato sia i prezzi di listino che i prezzi di questa particolare iniziativa, che sono sempre più bassi rispetto agli street price che si trovano normalmente, quindi ai prezzi che vengono normalmente applicati nei negozi. Certo, senti, possiamo fare degli esempi anche per capire i prezzi e il tipo di sconto? Sì, assolutamente. Allora partiamo da dei veri miti, che sono i caschi integrali ARAI che vengono distribuiti, importati in Italia dalla Bear Racing. Ecco, c'è un casco integrale che è il Viper GT, che è sostanzialmente appunto un gran turismo. Questo casco si può acquistare a seconda delle grafiche dai 405 ai 489 euro, a fronte di prezzi di listino che andrebbero dai 579 a 699, quindi uno sconto praticamente di 200 euro. E poi una leggenda, che è la RAI RX7 Corsair, che sostanzialmente resta un punto di riferimento, anche se la RAI ha recentemente presentato anche dei modelli più nuovi. Comunque i prezzi della RAI RX7 Corsair vanno dai 535 ai 625 euro, contro un range di prezzi da 765 a 894, quindi anche qui ci sono oltre 250 euro di risparmio. Molto bene, grazie davvero a Fabio Cormio e a tutti voi per questa bella iniziativa da Due Ruote. A presto e buona serata. A presto, grazie Roberto. Quattro ruote e dintorni. E adesso indossiamo gli sci. No, non avete sbagliato trasmissione, si tratta sempre di Quattro Ruote Dintorni, però abbiamo scovato uno sci club fatto apposta per amanti di Porsche, e allora, siccome non ne abbiamo mai parlato, ve lo presentiamo volentieri. Si chiama Porsche Sci Club, è presieduto da Norbert Lutteri, che ha il telefono con noi. Allora intanto buonasera Presidente, bentornato. Buonasera a tutti. Che cos'è il Porsche Sci Club, da quanto esiste e di che cosa si occupa? Così ci inserisce un po' in questo mondo. Club è un'associazione che unisce le passioni dei nostri clienti macchina e sci. Esiste da 8 anni, facciamo una serie di eventi ogni inverno per dare spazio a chi usa la Porsche e a chi nello stesso momento vuole sciare. Ma la caratteristica è quella di essere proprietari di Porsche, o è sufficiente essere tra virgolette amici o appassionati di Porsche? No, bisogna essere proprietari di una Porsche e bisogna voler sciare. Ottimo, questo lo davamo per scontato. Allora, che cosa succederà durante questo inverno? Siamo ormai a gennaio inoltrato, però avete alcuni appuntamenti. Ce li descrive nel dettaglio? Allora, abbiamo normalmente 5 eventi in un inverno, uno l'abbiamo già fatto 2 settimane fa a San Martino di Castrozza, adesso a metà gennaio andiamo alla Betone, dove segue il prossimo evento. Primi di febbraio siamo all'Alpe di Mera, un posto piccolo, poco conosciuto ma molto carino, nelle vicinanze di Milano. Sì. Andremo in Alto Adige a fine febbraio per chiudere poi a marzo a Livigno con una finale spettacolare. Ah, bellissimo, perché il tutto prevede delle gare e un campionato? Esattamente, sono gare di sci combinate con una prova auto che viene fatta normalmente sulla neve. E noi abbiamo Peter Ungaldir che ci segue nella parte tecnica per lo sci. Peter, forse chi scia lo conosciamo, perché ha vinto la Coppa del Mondo. E abbiamo i piloti della Porsche Driving School che seguono le prove auto che vengono normalmente fatte sulla neve con i doni pneumatici invernali. Senta, Presidente, chi è il target tipo di questo tipo di eventi? Perché porscisti ormai ce ne sono tanti, anche di tutti i colori. Chi è il porscista che si occupa di sci e dello sci club? Chi partecipa? Ma partecipa tutti i clienti appassionati. Abbiamo clienti da tutta l'Italia. I più lontani vengono da Napoli, da Pescara, da Giulianova, da Roma. Ci seguono ogni fine settimana dei nostri eventi fino in alta montagna con le loro Porsche e sono, tra virgolette, solamente appassionati. Decisamente. Che cosa succede poi a fine stagione? Fine stagione, appunto, facciamo la finale, cioè la finale consiste nel raggruppare tutti i punti raccolti durante le stagioni e ci divertiamo con una bella finale al Livigno. E allora in bocca al lupo a tutti i porscisti amanti di sci, grazie davvero a Norbert Lutteri, presidente Porsche Club. A presto e buona serata, Norbert. Grazie, salve a voi, arrivederci. Dalla Porsche passiamo alla DR. DR sta per Dirisio, era un proprietario gestore di diverse concessionarie in centro Italia e si è inventato un'auto. Avete capito bene, la DR, lo sapete perché ha fatto anche molta pubblicità, l'ultima credo con Anna Falchi o la penultima, e è una SUV, una piccola gippettina, piccola neanche tanto, che ha avuto un certo successo e veniva venduta invece che nei concessionari nelle Ipercoop. Adesso arriva invece la DR1, ce ne parla Alessandro Carcano di Quattro Ruote. Caro Alessandro, buonasera, bentornato. Ciao Roberto, una buona serata a tutti gli ascoltatori. Sento che anche la tua voce è messa bene, complimenti. Senti, che auto è la DR1 e in che segmento esattamente si inserisce? Guarda, la DR1 è una city car, appunto come dicevi tu prima, diciamo a seguito del successo che ha avuto proprio la DR5, lo ricordiamo che Dirisio ha questa joint venture con la Chery, che sono un colosso cinese, insomma uno dei più grossi marchi cinesi, ha deciso anche di lanciarsi proprio sul piano delle city car, che sicuramente, soprattutto in Italia, ha un grande pubblico. Diciamo che questa è una piccola due volumi a 5 porte che offre comunque in 3,56 metri e un passo di 2,33 metri una discreta abitabilità. Per quello che riguarda il motore è un 1.3 da 16 valvole, 83 cavalli, che sarà disponibile sia nella versione a benzina sia in una versione B-Fuel a benzina GPL e successivamente arriverà anche il metano. Le prestazioni dichiarate sono per il momento 156 km orari, comunque poi avremo anche la possibilità magari di parlare in questa trasmissione della nostra prova su strada, e è un'accelerazione da 0 a 100 in 12,1 secondi. Sì, anche se non è ovviamente l'auto che vuole staccare dei tempi incredibili al semaforo, si capisce. Però parlando dell'operazione, insomma, il DR5 è comunque piaciuto, è andato bene, ha venduto molto soprattutto nella prima fase, poi si è assestato. Del resto avere una vettura da 14 a 16.000 euro con dei contenuti propri di vetture più costose è sicuramente un'ottima idea. Quello che ti chiedo è: ma questa DR1 non incontrerà invece più problemi, visto che il segmento in cui si inserisce è davvero strainflazionato e con dei prezzi che grandi costruttori si possono permettere? Ma sicuramente non sarà facile, soprattutto all'inizio. Quello su cui punta Dirisio è il fatto di venderla come con un'unica versione, full optional, dotata tra l'altro oltre ai soliti immobilizer, antifurto con telecomando, autoradio, MP3, anche dei sensori di parcheggio, che di solito appunto le altre case ti mettono come optional facendo un po' lievitare il prezzo. Mentre Dirisio dice: questa è l'unica versione, full optional, sapete che questo è il prezzo, prezzo e da lì non si sgarra. Ti dico anche quali sono i prezzi dichiarati: per la versione benzina si partirà da 9.330 euro, mentre per quella B-Fuel GPL si partirà da 11.330 euro. Ecco, questa forse è la caratteristica principale di questa DR1. Sì, cioè quindi con la promessa che non ci si allarga come avviene sempre con i prezzi. Questa potrebbe essere anche un buon modo per lanciarla, per comunicarla sicuramente all'uscita di un anno difficile per tutti, ricordiamolo, quello del settore auto ovviamente. Lasciamo un attimo la DR in questo caso, Alessandro, e parliamo di un altro argomento importante, perché abbiamo tutti seguito con una certa apprensione il destino dei lavoratori della Bertone, un altro brand storico italiano. Esatto, sì, dal 21 dicembre la holding Bertone è tornata a rivivere. Come ricordiamo, in questi ultimi anni c'era stato proprio una sorta di telenovela dove la vendita prima e il fallimento poi sembravano susseguirsi una notizia dietro l'altra senza poi arrivare a una conclusione certa. Ti faccio un brevissimo excursus per ricordarlo anche ai nostri ascoltatori: si era partiti dal 2007 proprio con Dirisio che voleva comprarla, poi era entrato in campo il Tribunale Fallimentare di Torino, nel 2008 si era passati a Reviglio che era pronto col gruppo Keiber a subentrare a Bertone, a Lilli Bertone, ma le figlie si erano opposte, ancora problemi burocratici col tribunale, finché proprio nel 2009, quest'anno, si erano rifatte avanti la Keplero di Reviglio fino a poi all'arrivo della Fiat, che ha sbloccato questa situazione con il Ministero per lo Sviluppo Economico, che poi ha dato il via alla cessione proprio alla Fiat di una parte degli stabilimenti, e quindi ha salvato così i lavoratori, riassorbendoli anche in vista della joint venture con Chrysler. E questo è anche, no, uno dei lieti fini, insomma, più importanti, anche perché dietro ci sono decine e decine di persone, ci sono tante famiglie, c'è anche quell'immagine, insomma, di un'Italia che dagli anni 60 agli anni 90 ha creato tanto, comunque nel bene e nel male, ma ha creato tanto, ha dato molto all'industria automobilistica, ed è un peccato vedere questi carrozzieri, questi grandi designer soffrire, per cui speriamo, lo dico nelle migliori intenzioni davvero di un giornalista di auto qualsiasi, quale io sono, ma che ama il mondo dell'auto, speriamo che davvero anche Bertone riprenda il suo cammino, che era davvero davvero glorioso. Secondo te ci saranno anche sviluppi di questo tipo con altre marche, o a questo punto la joint venture con, e anche in parte della proprietà con Fiat, legherà ovviamente il brand Bertone all'azienda italiana? Ah, guarda, sembra che le due strade siano in un certo modo separate, nel senso che Fiat appunto ha riassorbito i 1.100 e passa dipendenti che comunque erano rimasti in azienda proprio in funzione della joint venture con Chrysler, mentre la holding Bertone 100 si è suddivisa in Stile Bertone, Bertone Engineering e Bertone Glass, e ha poco più di 200 dipendenti, quindi si è snellita e conta comunque di andare avanti da sola con le sue forze a questo punto. Bene, grazie ad Alessandro Carcano di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Grazie a te e una buona serata a tutti. Molto bene, adesso lasciamo gli ultimi due minuti per Roberto Barone, che ci fa compagnia con un argomento molto molto simpatico, molto gustoso, diciamo così. Caro Roberto, buonasera e a te la parola. Buonasera a tutti voi. Buonasera agli ascoltatori. Parliamo di metano. Dunque, la rete, come sapete, insomma, in questi ultimi tempi si spinge molto la vendita e diciamo così, la vendita di auto a metano, anche per la ecologicità e la diciamo così anche l'economicità di questo carburante. Se da una parte però si spingono in modo molto forte le vendite di queste vetture, dall'altra dobbiamo fare i conti con una rete, ecco, che attualmente è ancora decisamente insufficiente. Abbiamo assistito all'apertura di due nuovi impianti in Lombardia e precisamente nell'area di Milano, e precisamente parliamo del distributore di Via Moretti 93 a Milano, sì, e di un altro invece che è stato inaugurato a Noviglio, un paese della, cintura, diciamo così, milanese. In periferia. Ecco, questo aumenta sicuramente il numero delle la capacità distributiva di questo prodotto. Tra l'altro molti spingono il metano anche rispetto al GPL, dicendo che avrà più successo ancora. In realtà oggi il GPL a livello distributivo sta molto meglio del metano, però insomma vedremo, siamo pronti a qualsiasi iniziativa in questo senso. Quali possono essere le cose da chiedere alle istituzioni, Roberto? Quale spinta si può dare a questo settore? Ma guarda, abbiamo scoperto con notevole stupore che la burocrazia è incredibile, cioè per aprire un distributore di metano attualmente ci vogliono tra i 2 e i 3 anni, cioè una cosa incredibile, rispetto, per esempio facendo un paragone con i paesi vicini, a 6 mesi della Germania. Quindi è chiaro che se da una parte si spingono anche con ovviamente con incentivi governativi l'acquisto di auto metano e quindi l'acquisto di vetture ecologiche, dall'altra però bisogna necessariamente accelerare anche sul piano della burocrazia, perché in questo modo non riusciamo a tenere il passo anche sul, per quanto riguarda la rete distributiva. Se vuoi io posso dare 2 numeri tanto per capire meglio la situazione anche rispetto agli altri paesi europei. Tanto per capire, attualmente la rete in Italia conta un totale di 712-723, a seconda delle fonti, distributori in tutta la penisola. In Austria, per esempio, su 4.000 veicoli metano circolanti ci sono 133 stazioni con una media di 30 auto per distributore. In Svizzera, questi sono i dati riferiti al 2008, ma comunque non cambiano la situazione rispetto a oggi. Abbastanza aggiornati, fanno anche capire come sì, sta la situazione. Cioè, più che altro chiudiamo, il paragone rispetto alle auto per distributore che lascia perplessi. Ecco. Poi in Svizzera 7.000 veicoli a metano circolanti, 109 stazioni con una media di 64 auto per distributore. In Germania 72.000 veicoli, 804 stazioni, 90 auto per distributore. In Italia, parliamo sempre del 2008, 520.000 veicoli, 630 stazioni, la media è di 825 auto per distributore. Mamma mia, questo fa capire davvero la situazione drammatica in cui versiamo. Speriamo bene per questo 2010. Nel frattempo grazie davvero a Roberto Barone da Quattro Ruote, a presto e buona serata. Grazie a tutti voi, un saluto. Con la sua voce termina anche questa trasmissione, che ritrovate però puntuale sabato prossimo alle ore 21 qui su Radio 24. Grazie da Peter in regia, da Roberto Rasì al microfono, una sincera buona guida.